Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:14, ultimo appuntamento della settimana con Salva Danaio. Oggi parliamo dei fondi pensione, in particolare parliamo di un problema relativo ai fondi in questo periodo, i versamenti sospesi. Ovviamente anche questo è un riflesso della crisi, ma cercheremo come sempre di capire qualcosa di più. Voi scriveteci o telefonateci 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Con me, come sempre, autorevoli ospiti. Allora io comincio con il dottor Giuseppe Argentino, che è collegato telefonicamente con noi, responsabile capo ufficio studi del patronati ACLI. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E invece in studio con me, ringrazio per almeno farmi compagnia anche fisicamente, il collega del Sole 24 Ore, Marco Lo Conte. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima, come sempre, andiamo a dare un rapido sguardo su quanto sta accadendo sui listini. Hanno rallentato le piazze del vecchio continente rispetto all'apertura, anche se in questo momento Parigi sta recuperando qualcosa, più 0,22% il progresso per il CAC 40, mentre Francoforte guadagna uno 0,45%, rallenta Londra più 0,19%. A Piazza Affari resta il segno meno, anche se gli listini cercano di arginare le perdite, il FTSE MIB cede uno 0,27%, il FTSE All lo 0,18%. Sono attesi altri dati macro dagli Stati Uniti questo pomeriggio, che potrebbero aiutare l'andamento per quel che riguarda le piazze europee. Tornando a Piazza Affari, sul listino principale il miglior titolo è Pirelli, che guadagna quasi 3 punti, seguito da Agitec più 2,62%, Autogrill guadagna l'1,65%, Mediaset l'1,45%. In fondo al listino invece ritroviamo A2A, che comunque lima leggermente le perdite. In questo momento la flessione è dell'1,89% e scivola più in basso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, meno 1,9%, Ubibanca c'è dell'1,78%, Prismian l'1,7%, il Banco Popolare perde 1,5 punti. Sul listino completo andiamo a vedere RCS, che in questo momento cede poco meno di 3 punti percentuali, lo abbiamo già detto ma lo ricordiamo. Ieri il CDA ha fissato il prezzo per l'aumento di capitale, 1,235 euro per azione, quindi dopo il balzo della vigilia oggi RCS sconta la decisione. Per quel che riguarda i cambi, euro su dollaro 1,33,22 in questo momento, mentre il differenziale BTP Bund è sempre stabile a quota 274 punti base. Chiudiamo la nostra parentesi relativa ai mercati e adesso la nostra scheda. Un quinto degli iscritti, 1.200.000, ha sospeso i versamenti ai fondi pensione privati. 100.000 in più rispetto all'anno scorso e 500.000 in più negli ultimi 5 anni. Questo è il dato più emblematico che emerge dalla relazione annuale COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Al contrario dei versamenti, gli iscritti ai fondi di previdenza integrativa hanno un andamento positivo, in aumento del 5,3% rispetto al 2011, mentre sono calati dell'1,2% gli iscritti ai fondi contrattuali. La relazione COVIP segnala anche che il tasso di adesione ai fondi di previdenza integrativa da parte dei lavoratori dipendenti è pari al 25,5%, percentuale che scende al 20,2% se si guarda solo a chi alimenta la propria posizione. Tra le adesioni è boom per i PIP, forme pensionistiche individuali, che hanno aumentato le iscrizioni del 22,4% e si sono rivelati i più apprezzati dai risparmiatori. Un altro dato positivo è il rendimento dei fondi pensione. Oscilla tra l'8,2% dei fondi di categoria e il 9,1% dei fondi aperti, risultati in ogni caso superiori alla rivalutazione del TFR, pari al 2,9%. Ottimista la valutazione di COVIP sul sistema di previdenza complementare, che ha retto bene alle dure crisi finanziarie dell'ultimo periodo e potrebbe quindi rappresentare un punto di riferimento per un sistema di welfare allargato che integri con risorse private le prevalenti tutele offerte dal sistema pubblico. 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Marco, io partirei proprio da una prima considerazione: è solo dovuto alla crisi questa diciamo incremento delle sospensioni, dei versamenti? Beh, la crisi ha inciso, sta incidendo parecchio, soprattutto in alcuni settori, in particolare la metalmeccanica, ma non solo, e dunque è la prima opzione per molti poter anticipare, poter chiedere un'anticipazione dal proprio conto previdenziale. Questo è un dato che non è nuovo, l'anno scorso erano stati 1.100.000, quest'anno 1.200.000, insomma un dato in crescita. È un dato in crescita che sottolinea in realtà anche un po' l'efficienza dei fondi pensione, perché la possibilità di poter intaccare, sì, per quanto strategicamente non è il massimo, no, insomma, ai fini previdenziali, ma poter chiedere un'anticipazione dal proprio conto previdenziale acceso presso un fondo pensione è una grande opportunità. Uno, perché questo è una prerogativa maggiore rispetto al conferimento del TFR in azienda. Certo. E infatti la maggior parte delle richieste di anticipazione riguarda non ristrutturazione prima casa, non spese mediche, ma quelle altre motivazioni previste dalla normativa sui fondi pensione. La maggior parte chiede secondo questo capitolo di legge. Secondo luogo, è gratis, nel senso che quelli sono i miei soldi. Certo. No? E non devo chiedere prestiti a qualcun altro, insomma. Questo è un punto decisivo, ovvio, perché nel calcolo di convenienza io prendo quelli che sono i miei soldi a costo zero. Se vado a prendere un prestito da una qualunque azienda finanziaria, da una banca, una società, di qualunque tipo, devo sostenere dei tassi di interesse molto gravosi. Anzi, se, come è auspicabile, e lo auguriamo a tutti i 1.200.000 lavoratori che hanno chiesto questa anticipazione, procedano successivamente a, tra virgolette, rifondere, a restituire sul proprio conto previdenziale quella liquidità, quel denaro dato al fondo pensione è conveniente dal punto di vista fiscale, cioè quel denaro entro il limite annuo dei 5.164,57 euro è deducibile e quindi è doppiamente vantaggioso. Questo è un elemento per dire che nel momento di crisi i fondi pensione sono efficienti, sono uno strumento di welfare complementare, di ammortizzatore sociale, che sta svolgendo il suo compito, direi, in maniera abbastanza egregia. La stessa considerazione vorrei chiederla anche al dottor Argentino, anche perché ovviamente lei ha un osservatorio particolare, quindi vorrei chiederle quanto la crisi, quanto voi anche l'avete un po' toccata con mano. Ma sì, noi l'abbiamo toccata con mano perché facendo operazioni di consulenza, assistenza soprattutto ai lavoratori dipendenti, ci sono persone che perdono il posto di lavoro in questa fase, per cui cercano di usufruire di un'altra opportunità che viene riconosciuta dal decreto legislativo 252 del 2005, che appunto che è la norma che regola tutta la previdenza complementare in Italia. Allora, quando un lavoratore perde il posto di lavoro ed è iscritto a un fondo negoziale, in genere i fondi negoziali contemplano nei loro statuti la possibilità di riscattare tutto il montante contributivo. Mm. Certo, questo poi ha una tassazione più elevata rispetto all'altra tassazione più favorevole che c'è negli altri casi, del 23% all'uso, mentre la legge prevede che in casi, diciamo così, di tipo più ordinario si possa riscattare il 50% del montante accumulato dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalle dimissioni, dal licenziamento. Allora, capisce che le persone, se hanno problemi di liquidità, magari cercano un posto di lavoro, se non lo trovano, hanno bisogno di soldi, dove vanno a attingere? Ecco, certo. Un'altra. Certo, più si attinge dal fondo pensione, meno un domani si potrà avere di rendita. Assolutamente, diciamo che la previdenza complementare ha questo obiettivo, la costruzione della seconda, del secondo pilastro previdenziale. Ecco, a questo proposito, Marco, forse è giusto anche, come dire, precisare che sì, certo, c'è ovviamente per tutti il primo pilastro, però ecco, dobbiamo sempre tenere presente che questo primo pilastro diventa sempre più, come dire, sempre più fragile da un certo punto di vista, che è quello economico. Meno generoso, diciamo. Ecco, la fragilità generoso, è un sì. concetto che riguarda la stabilità, la solidità, e questa non è in discussione, per quanto poi il primo pilastro, per esempio l'INPS o gli altri enti previdenziali, sì. calcolano la rivalutazione dei nostri contributi in base alla crescita del PIL, a una media geometrica degli ultimi 5 anni, insomma, un fattore di calcolo, certo, che è collegato al nostro PIL. Se il PIL italiano chiaramente non cresce, è chiaro che la rivalutazione dei nostri contributi, per quanto al lordo dell'inflazione, non crescerà più di tanto. Alla fine questo è un altro elemento da considerare. Vero è che chi oggi ha 40 anni circa e andrà in pensione con il 65% all'incirca, sì. 60-55% del proprio stipendio, si deve interrogare se ciò gli basterà. Certo. E quindi è opportuno muoversi il prima possibile per mettere da parte qualcosina. Lo so che non è facile, però... No, certo, infatti lo dicevamo prima della trasmissione. Esatto. C'è sempre un po' di imbarazzo nel parlare di questo tema, perché è ovvio che anche noi, tutti noi, ci rendiamo conto che il momento è difficile, ed è difficile per tanti. Però è anche giusto, come dire, tenere presente che poi quando uno finirà la sua carriera lavorativa dovrà mantenersi, e mantenersi si spera sempre in maniera dignitosa, quindi... Le vendite, adesso ognuno si faccia i conti in tasca, io non pretendo di dare lezioni, tantomeno paternalistiche, sul bilancio familiare, certo, degli ascoltatori, me ne guardo bene. Che ha in tasca, certo. Esatto, mi permetto solo di esplicitare dei calcoli che dicono che chi prima inizia a risparmiare, meno deve risparmiare, perché il tempo è il miglior gestore, il tempo è in grado di... facevamo i calcoli l'altro ieri proprio sul sito web del Sole 24 Ore, basta il 3% del proprio risparmio a 30 anni, a 45 anni devi risparmiare già il 7% per ottenere lo stesso risultato, cioè se inizi 15 anni prima devi risparmiare meno della metà. Poi sappiamo i consumi quali sono, e certo. ci auguriamo che tutti consumino tanto, però ciascuno faccia conto sul proprio bilancio familiare e valuti se è il caso di spendere 100 euro in più, 200 euro in più per quel telefonino, per quel televisore, per quella vacanza, oppure mettere a parte una cifra analoga, per esempio, per invece un proprio futuro più sereno, perché poi insomma l'obiettivo di tutti è quello di passare una vecchiaia il più possibile serena. Ognuno rimette ordine alla propria gerarchia di valori e di necessità e ne tragga le giuste conseguenze. Allora, proprio per quanto dicevamo poc'anzi del nostro imbarazzo e anche grande rispetto a parlare di questo tema, c'è un ascoltatore in linea, Mario da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, signora, buongiorno. Ci dica. Niente, io volevo semplicemente dire che è tutto giusto quello che ho ascoltato fino ad ora dal vostro ospite precedente. Io ho una semplice e purtroppo, diciamo così, comune esperienza. Sì. Ho 54 anni, ho iniziato a lavorare a 21 anni in un'azienda, la quale 6 anni fa, quasi 7 oramai purtroppo, ha chiuso per una ristrutturazione del ramo fino a poi definitiva chiusura. Sì. Io da allora cerco un lavoro. Non riesco a trovarlo perché non vi è possibilità di inserimento per sì. persone della mia età che non sono vecchie, diciamo così, per poter andare in pensione certo. a sufficienza, ma nemmeno troppo giovani. Io ho una moglie che lavora, è un medico, e tutte le mattine devo dire che vederla andare a lavorare e rimanere in casa, tante certo. volte svogliatamente, devo ammetterlo, perché è abbastanza umiliante, e ci credo. Insomma, diventa pesante. Quindi largo ai giovani, come dicevo prima, però insomma un piccolo spazietto anche per persone come me che hanno contribuito assolutamente. Per più di 30 anni con i loro contributi al proprio paese e che adesso si ritrovano proprio assolutamente e socialmente invisibili. È molto triste questo. E ci credo. Signor Mario, io la ringrazio per la sua testimonianza. Ovviamente qualsiasi parola da parte nostra sarebbe, come dire, veramente fuori luogo, perché non ci sono commenti da fare, purtroppo noi poco possiamo fare se non parlare anche di questi temi. E ovviamente, come dicevamo, ci troviamo sempre con un certo imbarazzo a parlarne e a questo proposito arrivano anche degli SMS di ascoltatori che ci dicono che la trasmissione secondo loro è fuori luogo, è un tema sbagliato perché non ci rendiamo conto del momento che vive il paese e altri ci dicono fondi pensione, no, grazie. Noi però, a noi però sembra giusto anche ricordare appunto che poi ci sono varie fasi della vita e bisogna pensare e cominciare a pensare anche a quelle, quindi ci sembra giusto affrontare anche questo tema da questo punto di vista. Le 12:33 minuti, e allora andiamo dai nostri ascoltatori. Non ho ben presente chi ci fosse prima, ma comunque Angelo da Varese, buongiorno. Buongiorno, volevo sapere un'informazione in merito alla trasformazione del montante contributivo a fine corsa, Sì. diciamo così. Questi coefficienti sono fissi per ogni, una volta che si fa un contratto con una società di fondi pensione oppure possono variare nel tempo? Allora, io magari giro questa sua domanda al dottor Argentino. Sì, però ho sentito male, se ho ben capito chiede se i rendimenti possono variare nel No, sei tempo. coefficienti, I coefficienti coefficienti di passano. trasformazione. Se i coefficienti di trasformazione del montante pensionistico Stiamo variano parlando nel del primo tempo. pilastro, immagino, stiamo parlando della pensione obbligatoria, No, sì. immagino che parlasse del secondo. Ecco, questo bisogna essere precisi perché nel primo pilastro, beh, un minuto diciamo tutti, nella previdenza obbligatoria ci sono dei coefficienti di trasformazione stabiliti, diciamo, da disposizioni di legge di Sì. fatto e sono stati già cambiati 3 volte dalla riforma Dini in poi, nel senso che si sono abbassati questi coefficienti perché vanno di pari passo con l'allungamento della Ce speranza lo di vita. E ricordiamo. dal 2019 poi la manovra Salva Italia stabilisce che si cambieranno ogni 2 anni questi. Sì. Però questi sono coefficienti di trasformazione uguali per uomini e per donne e hanno per così dire un calcolo di tipo, dico in modo improprio, politico, nel senso che sono probabilmente un pochettino più aggiustati anche perché stiamo parlando del sistema previdenziale pubblico. Nei fondi pensione, a parte che i fondi pensioni non liquidano le rendite perché sono poi al termine della periodo di accumulo si trasferisce tutto il montante in una compagnia di assicurazione ed è poi la compagnia di assicurazione che gestisce il pagamento delle rendite. Si usano dei coefficienti di conversione, come vengono chiamati, che sono differenziati tra uomini e donne, anche se vabbè, c'è poi una disposizione europea che ci dovrebbe, adesso non andiamo troppo per le No, lunghe, ma differenziare troppo nel perché dettaglio. le donne hanno dei coefficienti di conversione più bassi. Perché campano più a lungo, queste sono statistiche, insomma, chiunque è Sì, abbastanza vabbè, lo evidente, sappiamo. cioè, quindi c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione. E cambiano, adesso per esempio sono tarati i coefficienti in questa fase sulla classe di età 1955, fino a poco tempo fa era la 1948, insomma adesso non voglio andare troppo nei dettagli tecnici, non ce la caviamo più. Però possono essere, però nel momento in cui uno comincia a percepire la rendita, il coefficiente di conversione è quello e poi non è che cambia più. Ok, Nicola da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno, senta, io ho 42 anni, Sì. volevo solo sapere una cosa, io ho fatto come scelta, avevo lasciato il TFR in azienda, Sì. adesso volevo sapere se potevo fare il fondo pensione se mi conveniva e se un domani avessi bisogno potrei prelevarlo senza alcuna giustificazione, ecco, anche per esigenze, diciamo, di crisi così, Per sue ecco, esigenze ascolto per radio. personali. Allora, io giro la domanda del signor Nicola al collega Marco Lo Conte, vediamo un po' se il signore può a questo punto dal TFR dirottare in un fondo pensione. Assolutamente sì, può destinare il suo TFR al fondo pensione, aderirvi. Se aderisce a un fondo pensione di categoria, se lavora con un contratto collettivo, può beneficiare anche di un contributo da parte del datore di lavoro in cambio di un suo contributo volontario e anche di una piccola percentuale. Cioè il lavoratore mette l'1%, il datore di lavoro può mettere l'1, l'1,5, il 2% a seconda dei contratti di lavoro. Per cui questo è un vantaggio in più perché Ulteriore, comunque certo. va a costruire la propria posizione. Conviene conviene, conviene, il calcolo di convenienza è sempre fatto a confronto con qualcun altro. Certo. In termini di rendimenti, negli ultimi anni i fondi pensione hanno dato rendimenti, nonostante la crisi che è stata molto significativa, montanti migliori rispetto, maggiori rispetto a quelli del TFR in azienda. E hanno offerto, proprio in caso di crisi, di questo stiamo parlando, una maggiore duttilità in caso di necessità, ossia sia il TFR in azienda che il fondo pensione offre la possibilità di ottenere anticipazione per acquisto, ristrutturazione prima casa e spese sanitarie. I fondi pensione in più danno la possibilità, entro il 30% del montante accumulato, di anticipare del denaro, come dicevamo, a costo zero, anzi con un vantaggio in caso di restituzione, sì, al fondo pensione, il vantaggio di poter dedurre fiscalmente questi versamenti. Quindi risposta sì su tutta la linea. Su tutta la linea. Marco dalla provincia di Pistoia, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, volevo fare una domanda relativamente appunto ai fondi di pensione. Sia io che mia moglie anni fa, nel 2007, avevamo aderito a un fondo pensione privato di un istituto bancario. Poi mia moglie, cosa è successo? È rimasta incinta, ha avuto il secondo bambino, l'altro era comunque piccolo e abbiamo deciso insieme che lei smettesse di lavorare e attualmente è disoccupata, casalinga, insomma, come, sì, come si dice. E lei praticamente ha alimentato questo fondo solo per un paio d'anni, in sostanza, per poco, sì, tempo. Quindi la cifra che si trova sul fondo è relativamente modesta, ma farebbe comodo in questi tempi. Ora io volevo sapere, estendo una cifra, e ovviamente non si prevede che per lungo periodo, per non dire mai più, sarà rialimentato questo fondo pensione, sì, quindi questa cifra rimane lì, tra l'altro avendo fatto acquisti, essendosi basato su un criterio di quote, non alimenterà neanche interessi più di tanto nel tempo, quindi proprio rimane lì fermi, sì, questi 3.000 euro o giù di lì. Anche per importi in casistiche del genere, importi così modesti, vale la legge che possa avere il 50% e il resto all'età della pensione, considerando che abbiamo a 43 anni mia moglie, quindi dovrei aspettare tipo 20-25 anni per avere 1.500 euro, oppure potrei riscuotere, certo, tutto subito, essendo una situazione come quella che ho spiegato? Allora, dottor Argentino, possiamo aiutare questo ascoltatore? Sì, ho ben capito, si tratta però di un'adesione di tipo individuale. Sì. E conseguentemente la situazione è un po' diversa, nel senso che vabbè, sono iscritto, la signora è iscritta dal 2007, può avere un'anticipazione al limite del 30%, però anche qui la legge prevede che bisogna essere rimasti iscritti alla previdenza complementare per almeno 8 anni, quindi ci sono se è un'adesione tipo individuale non vigono le regole, quindi non credo che abbia messo il suo TFR, quindi la cosa è un pochettino diversa. Se invece si tratta di un tipo di adesione di tipo collettivo, quindi un fondo negoziale, un fondo aperto ad adesione collettiva, allora lì vengono le regole per cui potrebbe chiedere, certo, non so, un riscatto anche totale, però insomma bisogna, sì, certo, nello specifico. La casistica è un po' diversa, no, diciamo che appunto chi perde il lavoro può ottenere subito la metà del montante, sì, accumulato, e dopo 4 anni, dopo 48 mesi la restante parte, perché scatta la clausola per cui cade il requisito di partecipazione, cioè io metalmeccanico dovesse capitarmi un problema alla mia azienda, rimango senza lavoro, allora perdo, e quindi perdo il lavoro, insomma decadono i requisiti di iscrizione al fondo, che in questo caso è Cometa, per cui subito il 50%, dopo 4 anni la restante parte. Quindi in questo caso, sottolineo, il fondo pensione funziona come in qualche modo ammortizzatore sociale. Poi ci sono molte idee, molti progetti, ma questi sono già fatti concreti. Per l'adesione individuale, l'anno prossimo la moglie del nostro ascoltatore potrà riscattare almeno il 30% dello stipendio, e in caso di spese mediche già subito fino al 75% del montante accumulato, e comunque già dall'anno prossimo, in caso di lavori di casa, può riscattare un'altra parte. Giuseppe da Bari, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Senta, la mia domanda è molto semplice, schematica. Dunque, con 9 anni da lavoro dipendente, assicurazione generale obbligatoria INPS, e da 4 anni iscritto nella gestione separata, sempre INPS, quale tipo di previdenza complementare mi converrebbe attivare con 38 anni di età, tenendo presente che avrei una prospettiva possibile di tornare nell'assicurazione generale obbligatoria INPS? Grazie. Grazie a lei, Marco. Beh, allora dipende se è un lavoratore dipendente. Sì, così se pare. È un lavoratore dipendente, avrà un contratto di lavoro che può essere, dicevo, metalmeccanico, chimico, commercio. Per ognuno dei contratti di lavoro esiste un fondo pensione. Sì. Per cui la priorità è, cioè diciamo la scelta prioritaria sancita anche nella stessa normativa, è quella di indirizzarsi verso il fondo pensione di categoria, perché costa di meno, questo è il dato più rilevante, perché i costi poi incidono nelle rendite in maniera certo. rilevante, e quindi il primo consiglio è scegliere il fondo di categoria. Se ha 38 anni, se ho ben capito, sì, così ci ha detto. Ha ancora sicuramente 20-25 anni di lavoro di fronte a sé, ha il modo di costruire un portafoglio, cioè un montante contributivo che può anche dargli la possibilità di recuperare un 10, 15, 20%, dipende da... Certo, insomma, dipende poi da tanti fattori. Rispetto al tasso di sostituzione, che è il rapporto tra ultimo stipendio e primo assegno pensionistico. Insomma, può costruire nel tempo un secondo pilastro che gli permetterà di dare un po' di sostanza. Che sia davvero utile, certo. Che comunque è complementare rispetto alla previdenza di primo certo, pilastro, che è quella INPS. Allora, è giusto anche dare conto degli sms che ci arrivano e che non sono, diciamo così, in linea con la trasmissione che stiamo portando avanti. Ci scrive Marco: i fondi pensione sono fatti solo per migliorare le pensioni di banchieri e finanzieri. E poi ancora un altro ascoltatore: ma che film avete visto? Con 1000 euro al mese come si può fare a pensare anche alla previdenza integrativa? E poi ancora, rivolto proprio a noi giornalisti: per voi i fondi pensione vanno bene, per noi poveri mortali possiamo solo annusare l'aroma dei vostri fondi. E poi c'è anche un altro ascoltatore che invece ci chiede qualcosa a proposito di pensioni integrative fatte all'estero. 12:47 minuti, Roberto da Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Grazie per l'opportunità. Grazie. Volevo una cosa, una risposta dai vostri esperti. Ci dica. Dunque, io il mio TFR l'ho destinato a un fondo pensione Arca. Sì. Però, diciamo, Equitalia mi ha richiesto dei soldi da pagare. Se io potevo usare quei soldi per pagare Equitalia. E no, in caso non lo potessi fare, se quei soldi, quel fondo pensione sì. È pignorabile. Grazie. Allora, dottor Argentino, ci può aiutare lei? Sì, c'era anche da dare una risposta al signore dell'estero, che sì. Se era possibile, comunque sì, all'estero ci sono situazioni un pochettino diverse, diciamo che noi in Italia siamo partiti un pochettino più in ritardo, oggi per esempio le risorse accantonate sono circa il 6,7% del PIL, ci sono dei paesi in Olanda dove superano il 100%, come l'Olanda e altri paesi eccetera. Però rispetto a questo, dunque, questo signore, come è stato detto prima, può richiedere un'anticipazione sì. al fondo pensione se è rimasto iscritto per almeno 8 anni nella misura del 30% del montante accumulato. Sì. Ecco. Poi nella normativa c'è anche scritto che tutti questi fondi sono nella fase dell'accumulo, sono praticamente impignorabili, adesso stavo andando a rivedere, nella fase di accumulo sono impignorabili e sono intangibili le anticipazioni per le spese sanitarie, ad esempio, sì. No? Mentre per il resto ci sono dei margini di manovra. Qui adesso il ragionamento si farebbe lungo, perché è anche possibile chiedere la cosiddetta cessione del quinto sì. Sul TFR, cioè ci sono persone che mentre lavorano accumulano il TFR, chiedono sì. un prestito e la garanzia del prestito del TFR. Il problema si è posto alcuni anni fa, quando delle persone hanno preso il TFR e l'hanno messo nei fondi complementari. Allora lì si è posto il problema: sto TFR può essere trasferito? Risposta dalla Covip, sì. Dopodiché però bisogna informare il soggetto che ha effettuato, che ha ceduto il credito, certo. insomma, in modo tale che nel momento in cui una persona chiede una prestazione, questo credito diventa in parte aggredibile. Uso un'espressione perché è un po' forte, le espressioni che si usano, a meno che non siano ad esempio anticipazioni per spese sanitarie, in quel caso invece non si possono toccare. Comunque ci sono, la Covip ha disciplinato tutta questa ipotesi in modo molto preciso e dettagliato. Massimo dalla provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e complimenti per la trasmissione. La ringraziamo. Ascolti, io lavoro un po' nelle assicurazioni e ho dei clienti e degli amici che sono stranieri e ultimamente mi hanno chiesto se possono girare TFR con la nostra compagnia. E fin lì tutto bene. Il problema arriva quando, qualora loro volessero tornare, che ne so, definitivamente nel loro paese, in Marocco, nel loro paese, possono riscattarlo o devono poi tornare quando sono dei pensionati in Italia per riprendersi il proprio TFR? Allora, Marco. Bella domanda. Allora, sono in corso delle discussioni per rendere a livello europeo innanzitutto portabile la posizione del singolo lavoratore. Evidentemente il vincolo di adesione in Italia porta al riscatto in Italia della pensione. Ciò non toglie che la costituzione di un patrimonio previdenziale in Italia possa trasformarsi in una rendita da una compagnia, da un fondo pensione, a vantaggio anche di un lavoratore che ha lasciato l'Italia, per cui non è necessario tornare fisicamente e vivere in Italia per avere una posizione in Italia. Su questo c'erano stati degli interventi della Covip stessa, per cui è chiaro che è una scelta di vita costituire obbligatoriamente già un portafoglio previdenziale da una parte, è chiaro che vincola per un certo periodo alla posizione nello stesso luogo. Sicuramente possibile, sicuramente poi incasserà la pensione, dipende da quanto tempo resterà in Italia questa persona. Certo. Allora, Agostino da Brescia, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. La domanda voglio porre è questa, non è tanto per me che sono già in pensione quanto per mio figlio che ha già iniziato quest'anno il lavoro. Sì. Però è stato assunto con un contratto a progetto. Ora, siccome mi risulta, da quel che ne so, che tali contratti non prevedono un TFR, che è la fonte principale di finanziamento di questi fondi, mi domando, è possibile in qualche altro modo sottoscrivere un fondo pensione e come finanziato? Marco. Allora, sicuramente sì, è possibile aderire con una quota del proprio reddito, della propria retribuzione, e in attesa, ve l'auguriamo, insomma, di un contratto più stabile, più sostanzioso, e quindi di poter avviare una propria posizione, cioè in maniera più consistente. Un punto importante è, allora, può aderire con l'1%, il 10%, diciamo nella misura tra l'8 e il 10%, un lavoratore può costituirsi un secondo pilastro dignitoso, diciamo così, a spanne, però insomma, certo, giusto per avere un'idea. Il 10% è una bella, Parte bella percentuale. Dipende, poi insomma, siamo genitori, i papà possono aiutare anche in questo senso, insomma. Ciò detto, un dettaglio importante è quando il figlio del nostro ascoltatore otterrà un contratto più stabile e migliore tutto, potrà portare la sua posizione presso un nuovo fondo, per esempio potrà aderire per il momento a un fondo aperto che sceglierà lui quale possibile. Ci sono poi diverse possibilità, ma anche per quanto riguarda Fondimps, che è un fondo all'interno dell'Inps per chi non ha, per i silenti che non hanno un fondo di categoria, però potrà comunque portare dopo 2 anni di adesione la propria posizione al fondo che vorrà, per cui il concetto di portabilità è uno dei cardini della riforma del 2005, proprio perché mette in concorrenza le diverse forme. Io posso portare la mia posizione dove voglio dopo 2 anni di adesione, questo è un elemento di flessibilità. Certamente. Allora, siamo davvero quasi in chiusura. Il signor Jezze da Reggio Emilia, buongiorno. Salve, buongiorno. Le chiedo di essere brevissimo. Allora, volevo chiedere, siccome noi siamo stranieri, abbiamo 3-4 anni che abbiamo aperto questo fondo pensione, sì, privato praticamente, e versiamo una somma modesta ogni mese, diciamo. Sì. E un anno fa, 2 anni fa abbiamo aperto anche per i bambini, abbiamo 2 bimbi, ma sì, una cifra proprio piccolissima per sì, i bambini. Volevo sapere solo, diciamo, sai, con l'andamento del lavoro, queste cose qua, se in un domani capita che noi siamo obbligati, diciamo, a lasciare l'Italia per un motivo o per un altro. Cosa succede con questo fondo? Allora, Marco, velocissimamente, perché siamo proprio in chiusura, in parte abbiamo già risposto prima l'altro signore. In parte abbiamo già risposto, la posizione va a costituirsi, va a crescere col tempo, anche se sono pochi soldi. Il tempo lo fa crescere e li alimenta. È importante costruire per il proprio futuro, anche per i propri figli. La scelta è assolutamente corretta, non solo perché fiscalmente è vantaggiosa, ma perché costruire il futuro è fondamentale. Anche... Noi viviamo una crisi nera proprio perché in passato non si è pensato al futuro e quindi dobbiamo guardare sempre al futuro, non dobbiamo cadere nella dittatura del presente, dobbiamo continuare a guardare il futuro e risparmiare per il Facevamo nostro futuro. Facevamo questa considerazione anche con il dottor Argentino prima della trasmissione. Ringrazio quindi Giuseppe Argentino, responsabile patronati ACLI, per essere stato con noi. Grazie al collega del Sole 24 Ore Marco Lo Conte. A tutti voi l'augurio di un buon weekend. Salva Danaio.